con l'anima stanca di stare all'impiedi, trovò una locuzione sulla quale poté comodamente sedersi e continuare ad indossare maschere e costumi, chiamandoli amore di sé. Degli altri fece tanti spettatori, creando del nostro il suo teatro mondo. A me non restava che fare del silenzio una bara di legno dignitoso e dell'amore una salma di sé.